Capitolo secondo. I misteri di Albertine. Le fanciulle che Albertine vede nello specchio. La dama sconosciuta. Il lift. Madame de Cambremer. I piaceri di Nissim Bernard. Primo abbozzo dello strano carattere di Morel. Charlot a pranzo dai Verduran. Temendo che il piacere tratto da quella passeggiata solitaria potesse affievolire in me il ricordo della nonna, cercavo di ravvivarlo pensando a qualche grave sofferenza morale che l'aveva afflitta, sofferenza che, al mio richiamo, tentava di costruirsi nel mio cuore, slanciandovi i suoi immensi pilastri. Ma il mio cuore, certo, era troppo piccolo per contenerla. Non avevo la forza di reggere un dolore così grande. La mia attenzione veniva meno nel momento in cui esso si riformava intero e le sue arcate precipitavano prima d'essersi ricongiunte, così come crollano le onde prima d'aver compiuto la propria volta. Ma sarebbero bastati i miei sogni, quando dormivo, a farmi capire che il mio dispiacere per la morte della nonna s'attenuava, giacché lei vi appariva meno oppressa dall'idea che io mi facevo del suo nulla. La vedevo sempre malata, ma in via di ristabilirsi, la trovavo meglio. E se alludeva a ciò che aveva sofferto, io le chiudevo la bocca con i miei baci, assicurandole che adesso era guarita per sempre. Avrei voluto far constatare agli scettici che la morte è davvero una malattia da cui ci si salva. Solo non trovavo più nella nonna la ricca spontaneità d'una volta. Le sue parole non erano che una replica indebolita, docile, quasi una semplice eco delle mie. Lei non era più che il riflesso del mio pensiero. Sebbene fossi ancora incapace di sentire nuovamente un desiderio fisico, Albertine ricominciava tuttavia a ispirarmi almeno un desiderio di felicità. Certi sogni di tenerezza condivisa, sempre aleggianti in noi, s'accompagnano volentieri per una sorta d'affinità al ricordo, a patto che sia già un po' sbiadito, d'una donna con la quale abbiamo provato il piacere. Era un sentimento che mi evocava del volto di Albertine aspetti più dolci, meno gai, abbastanza diversi da quelli che m'avrebbe evocati il desiderio fisico. E poiché rispetto a questo era anche meno pressante, avrei preferito rimandarne la realizzazione al prossimo inverno, senza cercare di rivedere Albertine a Balbec prima della sua partenza. Ma anche nel mezzo d'un dolore non ancora sopito, il desiderio fisico rinasce. Nel letto dove ogni giorno ero costretto per lunghe ore al riposo, mi auguravo che Albertine venisse a ricominciare i nostri giochi d'un tempo. Non succede forse che nella stessa camera in cui hanno perduto un figlio, due sposi, subito di nuovo avvinti, diano un fratello al piccolo morto? Cercavo di distrarmi dal desiderio andando a guardare dalla finestra il mare di quel giorno. Che i mari da un giorno all'altro rimanessero gli stessi era, come il primo anno, una rara combinazione. Ma per un altro verso assomigliavano ben poco a quelli del primo anno. Sia perché adesso dominava la primavera con i suoi temporali, sia perché, quando anche fossi venuto nello stesso periodo della prima volta, un tempo diverso, più mutevole, avrebbe potuto sconsigliare quella costa a certi mari indolenti, fragili e vaporosi che avevo visto addormentati sulla spiaggia nelle giornate più ardenti, il loro seno azzurrino impercettibilmente sollevato in un molle palpito. Sia soprattutto perché i miei occhi, istruiti dal Stir a privilegiare proprio gli elementi che in precedenza scartavo a bella posta, contemplavano lungamente ciò che il primo anno non erano in grado di vedere. L'opposizione, che allora mi aveva tanto colpito fra le passeggiate agresti fatte in compagnia di Madame de Villeparisis e la fluida e inaccessibile mitologica prossimità dell'oceano eterno, non esisteva più nella mia mente. E c'erano giorni in cui, al contrario, il mare stesso mi sembrava quasi rurale. Nei giorni abbastanza rari di tempo veramente bello, il calore aveva tracciato sulle acque, come attraverso i campi, una strada bianca e polverosa, oltre la quale l'aguzza sommità d'un peschereccio spuntava come il campanile d'un villaggio. Un rimorchiatore, di cui non si scorgeva che la ciminiera, fumava in lontananza come una remota officina, mentre, solitario all'orizzonte, un riquadro bianco e convesso, disegnato di certo da una vela, ma l'apparenza compatto e quasi calcareo, faceva pensare all'angolo, lambito dal sole, di qualche edificio isolato, ospedale o scuola. E, nei giorni in cui s'aggiungevano al sole, le nuvole e il vento perfezionavano, se non l'errore di giudizio, perlomeno l'illusione del primo sguardo, la suggestione che questo risveglia nella fantasia. L'alternarsi di spazi di colore nettamente ritagliati, simili a quelli che, in campagna, risultano dalla contiguità di differenti culture, le asperità violente, giallastre e come fangose della superficie marina, gli argini, le scarpate che sottraevano alla vista una barca dove una squadra d'agili marinai sembrava intenta alla mietitura, tutto questo, nei giorni di burrasca, sembrava trasformare l'oceano in qualcosa d'altrettanto variegato e consistente, accidentato e popoloso, d'altrettanto civilizzato quanto il terreno carrozzabile sul quale andavo un tempo e presto sarei nuovamente andato a passeggiare. E una volta, non potendo più resistere al mio desiderio, invece di rimettermi a letto, mi vestii e partii per raggiungere Albertine a Ancreville. Le avrei chiesto d'accompagnarmi fino a Deauville, dove contavo d'andare in visita a Féterne, da Madame de Cambremer, e alla Raspellier, da Madame Verdurin. Albertine, nel frattempo, m'avrebbe aspettato sulla spiaggia e la sera saremmo tornati insieme. Presi il trenino locale di cui un tempo Albertine e le sue amiche m'avevano insegnato tutti i soprannomi in uso nella regione, dove lo chiamavano Tortiglione per le sue innumerevoli deviazioni, Trabiccolo perché avanzava pianissimo, Transatlantico a causa della terrificante sirena di cui era munito per fare scansare i passanti, Decoville e Funy perché, pur non essendo una funicolare, s'arrampicava sulla scogliera e, non essendo nemmeno in senso proprio una Decoville, aveva uno scartamento da 60. B.A.G. perché andava da Balbec a Gralevast, passando per Angerville. Tram e T.S.N. perché faceva parte della linea tranviaria del sud della Normandia. Mi installai in uno scompartimento dove ero solo passeggero. C'era un sole splendido e un caldo soffocante. Abbassai la tendina azzurra dalla quale non filtrava che un raggio di sole. Ma subito vidi la nonna come m'era apparsa, in treno, alla nostra partenza da Parigi per Balbec, quando, addolorata che mi fosse riempito di birra, aveva preferito non guardare, chiudere gli occhi e far finta di dormire. Io, che un tempo ero sconvolto dalla sua sofferenza quando il nonno beveva un cognac, non soltanto le avevo inflitto quella di vedermi prendere, su consiglio d'un altro, una bevanda che lei riteneva funesta per me, ma l'avevo costretta a lasciarmi libero di ingozzarmene a modo mio. Peggio ancora, con le mie stizze, le mie crisi di soffocamento, l'avevo forzata a farsi mia complice, a consigliarmelo, in una rassegnazione suprema della quale avevo stampata nella memoria l'immagine muta, disperata, quegli occhi chiusi per non vedere. Questo ricordo, simile a un colpo di bacchetta magica, ma aveva nuovamente restituito l'anima che da qualche tempo stavo perdendo. Che cosa avrei potuto farmene di Rosemont se le mie labbra erano interamente ed esclusivamente percorse dal desiderio disperato di baciare una morta? Che cosa avrei potuto dire ai Cambremer e ai Verdurin se il mio cuore batteva così forte perché vi si riformava di continuo il dolore sofferto allora dalla nonna? Non riuscii a restare nello scompartimento. Non appena il treno si fermò a Menville a Tinturier, scesi rinunciando ai miei progetti. Da qualche tempo Menville aveva acquistato una considerevole importanza e una reputazione particolare perché il direttore di parecchi casinò, commerciante in benessere, aveva fatto costruire nei dintorni, profondendovi uno sfarzo di cattivo gusto capace di rivaleggiare con quello d'un albergo di lusso, un locale sul quale torneremo in seguito e che era, per dirla francamente, la prima casa di tolleranza per gente chic che si fosse pensato di impiantare sulle coste di Francia. Era l'unica. Ogni porto ha la sua, si capisce, ma buona solo per i marinai e gli amanti del pittoresco, che si estasiano vedendo, a due passi dalla chiesa di immemorabile antichità, la tenutaria, quasi altrettanto vecchia, veneranda e muschiosa, di vedetta, sulla soglia della sua porta malfamata, in attesa del ritorno dei pescherecci. Tenendomi alla larga dalla sfavillante casa di piacere, edificata con protervia in quel luogo malgrado le proteste vanamente indirizzate al sindaco delle famiglie, raggiunsi la scogliera e ne seguii i tortuosi sentieri in direzione di Balbec. Udii, senza raccoglierlo, il richiamo dei biancospini. Vicini meno opulenti dei meli, trovavano troppo massicce, pur riconoscendo la freschezza del loro colorito, le figlie dai rosei petali di quei grossi produttori di sidro. Sapevano che le loro, anche se non potevano contare su una dote tanto cospicua, erano più ricercate e che a renderle attraenti bastava il loro candore un po' gualcito. Quando rientrai in albergo, il portiere mi consegnò una partecipazione di morte dove ad annunciare il decesso erano il marchese e la marchesa di Gonneville, il visconte e la viscontessa d'Amfreville, il conte e la contessa di Berneville, il marchese e la marchesa di Grencourt, il conte da Menoncourt, la contessa di Menville, il conte e la contessa di Franquetot, la contessa di Chaverny, nata d'Aigleville. Perché mai mi fosse stata inviata, non lo capii se non quando riconobbi i nomi della marchesa di Cambremer, nata Dumenil la Guichard, del marchese della marchesa di Cambremer, e vidi che la defunta, una cugina dei Cambremer, si chiamava Eleonore Euphrasie Humbertine, de Cambremer, contessa di Criquetot. In tutta la distesa di quella famiglia provinciale, la cui enumerazione riempiva righe fitte e sottili, non un solo borghese, e d'altronde non un titolo conosciuto, ma l'intera combriccola dei nobili della regione, che facevano cantare i loro nomi, i nomi di tutte le località interessanti della zona, dalle gaie terminazioni in Ville, in Cour e a volte più sordamente in To. Rivestiti delle tegole dei loro castelli o dell'intonaco delle loro chiese, con la testa vacillante che sporgeva appena dietro la volta o il corpo principale dell'edificio, e solo per acconciarsi con il lucernario normanno o le colombaie del tetto a cono, sembrava che avessero suonato la dunata di tutti i bei villaggi scaglionati o dispersi in un raggio di 50 miglia e li avessero disposti in formazione serrata, senza una lacuna, senza un intruso, sulla compatta scacchiera rettangolare di quell'aristocratica lettera listata a lutto. Mia madre era risalita in camera, meditando questa frase di Madame de Sévigné. «Non vedo nessuno di coloro che pretendono di svagarmi. Quel che vogliono, senza parlarmene apertamente, è impedirmi di pensare a voi, e questo mi ferisce». Giacché il primo presidente le aveva suggerito di distrarsi. A me l'alto magistrato bisbigliò: «È la principessa di Parma». Il mio timore svanì non appena vidi che la donna da lui indicatami non aveva alcun rapporto con Sua Altezza Reale. Ma poiché costei aveva prenotato una camera dove pernottare di ritorno da una visita a Madame de Luxembourg, la notizia aveva avuto su molti l'effetto di indurli a scambiare per la principessa di Parma ogni nuova arrivata e su di me di farmi salire a rinchiudermi nella mia soffitta. Non avrei voluto restarci da solo. Erano appena le 4. Pregai Françoise d'andare a chiamare Albertine perché venisse a passare con me le ultime ore del pomeriggio.